Gentili amici, un cordiale buon pomeriggio, buonasera da Radio Alma. Chi vi parla è Roberto Giava e per questa sera tutta Bruxelles ascolterà per la prima volta in assoluto la voce di Deda Fiorini. E vi chiederete chi sarà mai questa Deda Fiorini. Bene cari amici, tra un attimo le daremo la parola. Deda Fiorini è una nuova, affascinante, bravissima, intraprendente ragazza che lavora con noi qui a Radio Alma 101.9. Siamo in diretta e avremo in diretta Deda tra poco e ci presenterà il suo nuovo programma, Nuovo di Zecca, 100 città. Un viaggio attraverso tutte le città d'Italia, le più di 100 province italiane, sono esattamente 104. E allora Deda, classe 1981, proviene da Ravenna, questa sera ci parlerai di una città in particolare, ma intanto ti do l'occasione di presentarti. Ciao a tutti, benvenuti a Radio Alma. Oggi ha inizio appunto 100 città, come vi diceva prima Roberto, trasmissione che vi terrà compagnia una volta a settimana, con me al microfono e Giulio in regia. In ogni puntata vi racconteremo una città italiana ed è con Bologna che abbiamo deciso di inaugurare questa prima puntata. Bologna è capoluogo della regione Emilia-Romagna ed è collocata nella parte emiliana. Antichissima città universitaria, ospita numerosissimi studenti che animano la sua vita culturale e sociale. Nota per le sue torri e i suoi lunghi portici, possiede un bellissimo centro storico tra i più estesi d'Italia. Ha vissuto periodi difficili e drammatici dove la politica ne è stata protagonista, in primis quella che viene ricordata a malincuore come la strage di Bologna, dove nel 1980 una bomba causò 85 morti nella stazione centrale. L'orologio principale si fermò alle 10:25 ed ancora adesso lo si può vedere fermo su quell'orario. La fede politica è sempre stata molto accesa tra i giovani bolognesi ed oggi, fortunatamente, non si manifestano più fatti violenti collegati ad essa. Grazie ad una forte presenza di giovani, essendo città prettamente universitaria, Bologna è sicuramente una città originale e creativa. Già dal modo di parlare, i giovani bolognesi hanno uno stile tutto loro e per esempio si dice «andiamo a taffiare, dopo si fa balotte, poi tutti a gubbiare». I bolognesi che ci stanno ascoltando saprebbero dirmi che ho appena detto «andiamo a mangiare, dopo si fa festa e poi tutti a dormire». La stranezza è che pur essendo una grande città, moderna e piena di giovani, gli stessi abitanti hanno mantenuto alcune parole dialettali nel tempo, inserendole tra gli slang più moderni. Quindi è rarissimo sentire un ragazzo parlare il dialetto bolognese, ma è usualissimo sentirlo parlare in uno slang molto moderno, inserendoci parole dialettali adattate all'italiano. Un modo di dire bizzarro è l'uso dell'aggettivo vez. Tutti i ragazzi si chiamano vez tra di loro, che significa vecchio, un po' come un intercalare, come dire ehi amico. I punti di ritrovo dei giovani sono i circoli, i pub, ma specialmente il centro, e via Zamboni in particolar modo, che è piena di università. Camminando per il centro di Bologna si è sempre al coperto, difatti è piena di porticati. Incontri tantissimi rastaman, con cani al guinzaglio, studenti con zaini in spalla, dark, ragazze vestite all'inglese. Questa è la gente di Bologna, particolare, diversa, originale, perché Bologna è città universitaria per eccellenza e vengono ragazzi da tutta Italia e dall'estero. Come vi dicevo, nel centro di Bologna si cammina quasi sempre al coperto, infatti è famosa per i suoi portici. Questa soluzione urbana ha nei secoli riscosso molto successo presso il capoluogo emiliano, che conta portici per ben 38 km di lunghezza. La città non è solo piena di porticati, ma anche di bei monumenti e palazzi. Per esempio il Palazzo di Re Enzo è un'ammirabile testimonianza di architettura medievale. La Basilica di San Petronio è un capolavoro dallo stile gotico, che nel progetto iniziale doveva essere più grande di San Pietro in Roma. E è importante ricordare Gianni Morandi, che è sicuramente uno dei pittori più interessati ed importanti del panorama internazionale. A Bologna infatti è attivo un museo interamente dedicato al maestro. La città, scrigno di opere d'arte, conserva importantissimi capolavori di scultura: la Fontana del Nettuno in Piazza Maggiore, il drammatico compianto sul Cristo morto in terracotta di Niccolò dell'Arca e la celebre Arca di San Domenico presso l'omonima chiesa. Deda? Sì? Posso intervenire un secondo? Allora io sarei un vez. Ehi, vez! È possibile sapere da quale età uno viene definito potresti vez? Potresti avere anche 13 anni e potrei dirti ehi, ciao vez! Ah, allora è giusto, è un intercalare come dicevi. Sì, è un intercalare che però in un'altra città può sembrare quasi offensivo. Ma com'è che si dice andiamo a mangiare? Questo andiamo a taffiare. Taffiare? Sì, ma e poi andiamo a fare balotta. E balotta è baldoria, no? Cos'è? Baldoria, baldoria, festa. Un po' di festa. Ma taffiare ha un'origine storica... Ha un'origine dialettale. Dialettale. Che sarebbe taffiar. Taffiar. Taffiar. Taffiar. E invece l'hanno, i giovani l'hanno modernizzato nel loro slang e dicono taffiare. Ma questi slang si trovano presso dei gruppi giovani anche, dei gruppi musicali giovani. Tu ne conosci qualcuno in particolare che ti piacerebbe sentire, no? Allora, mi piacerebbe molto sentire un ragazzo che è stato protagonista della scena musicale contemporanea di Bologna e che è uscito oltretutto dalla scuola bolognese di cantautori, che è Cesare Cremonini, cantante dei Luna Pop. Radio Alma 101.9. Allora, chi vi parla è ancora Roberto Giava, che di nuovo è lì per dare la linea ad Eda. Avete sentito una presentazione niente male della città di Bologna, seguita da un pezzo di Cesare Cremonini. A me piace molto, poi son gusti. Ed Eda, ti stavamo parlando dei monumenti, delle opere che si possono trovare a Bologna, e visitando Bologna, tra un monumento e l'altro, non potete non assaggiare la cucina tipica, gustosa ed invitante. Sì, perché Bologna è grassa e si mangiano pulente e succulente prelibatezze. Dici queste cose a uno che di gastronomia se ne intende. Adesso so che mi metterai una fame. Oh, guarda che da ieri che non mangio bene. Allora dobbiamo andare a Bologna e mangiarci senz'altro le tagliatelle, che la leggenda narra siano state inventate proprio a Bologna nel 1487 da tal Zefirano, che in occasione del matrimonio di Lucrezia Borgia si ispirò ai suoi biondi capelli. Andando a Bologna, caro Roberto, potresti assaggiare anche i tortellini in brodo di cappone e di gallina, che sono un'altra gloria cittadina. Davanti ad un piatto tipico si possono vedere coinvolgenti concerti in una delle tante osterie che propongono esibizioni live di band anche di fama internazionale, come per esempio alla cantina Bentivoglio, storico locale di Bologna. E dopo si può animare la serata nei tanti locali, ce ne sono di tutti i gusti, dai locali pop ai club gay, ai posti dark come per esempio il Decadence, dove ci si può entrare esclusivamente vestiti di nero, ed una volta entrati la serata trasgressiva è assicurata solo per persone che amano il genere. Allora tuffiamoci un po' in questa atmosfera dark e ascoltiamo una versione decisamente trasgressiva della celebre canzone Maniac, rifatta dai Bio System 55, gruppo emergente del panorama musicale bolognese. Maniac. Questa è 100 città, lo ribadiamo, a beneficio di quanti coloro si fossero posti soltanto adesso all'ascolto di Radio Alma 101.9, e che avete appena ascoltato è Deda Fiorini, la nostra nuova stagiaire della radio, ormai più che una stagiaire, ormai sta diventando una presenza fissa. Lo spero. Volevo tornare sui cappelletti, ci sono nomi diversi, sì, poi a seconda, sì, della regione. I cappelletti, no? Ma i tortellini specialmente sono molto conosciuti a Bologna, che puoi mangiarli in brodo. Guarda che non è che siano conosciuti soltanto, si fanno bene soltanto a Bologna. Si fanno meglio a Bologna. Io di Bologna non sono, per i tortellini vado matto. Dimmi a Bruxelles un posto dove posso mangiare una buona imitazione. Te lo dico io. Mi ci porti? Certo, non sono neanche imitazioni. Poi facciamo il confronto. Originali. Che vengono congelati direttamente in aereo da Bologna e arrivano nella valigia di Annalisa, che tra un po' avremo qui ai microfoni e ci parlerà della nonna che fa i tortellini meravigliosi e poi ci invita a delle mangiate terribili a casa sua. Ma vuoi mettere i tortellini fatti sul momento e quelli congelati portati in aereo? Non c'è confronto. Lo so. E infatti io attendo un invito a cena da parte della nonna di Annalisa. Certo. Che ne potrà ribadire tra un attimo quando arriverà in studio. Credo che sia all'ascolto e forse è già lì che sta cercando di parcheggiare o nel traffico del ring di Bruxelles, che come sempre quando si tratta di andare in diretta è sempre intasato. E a questo punto so che magari c'è una pausa musicale. Invito il regista di 100 città, ovvero Giulio M, e per lui anche un battesimo. Ciao, un Giulio. Battesimo dell'etere. Ciao, ciao. Questa sera, e a scegliere un pezzo qualunque e a metterci un po' di musica sotto. Nel frattempo ricordiamo che siamo anche su una base, credo, del Negramaro. Sì, una base del Negramaro. Ti è piaciuta la base musicale? Mi è piaciuta molto. Può diventare, sì, la sigla ufficiale di questo potrebbe programma? Diventare la sigla ufficiale, anche se ho delle idee da proporti che sono accattivanti. Io sono aperto a tutte le idee, purché siano nuove, giovani, fresche. Allora dopo ne parliamo, ti piaceranno sicuramente. Allora, sono sicuro che nel frattempo Giulio sta per fare play. Allora, Giulio, te hai vissuto a Bologna per un po' di tempo, mi dicevi? Hai visto che è pieno di locali, di pub che propongono musica live? Sarai stato sicuramente alla cantina Bentivoglio, per esempio. No. Beh, un rinomato. Hai proprio preso l'unico in cui non sono mai stato. Allora, la prossima ci devi andare, perché è un rinomato posto jazz dove ci sono artisti di fama internazionale. Ti mangi un piatto tipico bolognese, intanto ti guardi un gran concerto jazz. Va bene. Mi raccomando, ne terrò conto. Ti volevo dire, sai che la città di Bologna vanta un passato e una tradizione musicale incredibile che è equiparabile solo a poche altre città in Europa. Vabbè, ma così è troppo. Così è troppo cosa? Dai, proviamo. Vabbè. Ok, tracce riguardanti la musica risalgono al 200, ma solo a partire dalla seconda metà del XV secolo è documentata un'attività regolare caratterizzata. Grazie alla cattedra universitaria riservata alla musica da Papa Nicolò V, a Bologna si sedimenta il sapere dei più illustri teorici dell'epoca, protagonisti di lezioni musicali memorabili. Facciamo un salto di quasi 500 anni. Un uomo bolognese rivoluzionerà il mondo della comunicazione. Chi è Giulio? Un uomo bolognese è senza dubbio Marconi. Grandissimo. Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, che l'8 dicembre del 1890 ha trasmesso il primo segnale transoceanico. Perfetto. Dalla collina di Pontecchio. Di mamma mia, come, Giulio, come sì. Come la località, bisogna dire che la località poi ha preso il nome Pontecchio Marconi. Non mamma mia, niente. Giulio è una fonte inesauribile, veramente di conoscenza. Ma è grazie anche all'amico Simone, appena arrivato dall'Italia. Benvenuto Simone, ciao. Inoltre, anche la prima radio libera nella storia italiana è bolognese e risale al 1970. È 72? 4. E si chiamava Radio Alice. Radio Alice. Il fenomeno della radio libera è stato un momento molto importante nella storia del costume del bel paese. Voce della cultura alternativa, di inchieste giornalistiche e controcorrente della musica pop e rock che allora incominciò a diffondersi nella società italiana. Il sistema dello spettacolo dal vivo a Bologna è ricco e vario. La città offre un elevato numero di spazi e appuntamenti per quanto riguarda il teatro, la musica e la danza. Grazie alla prolifica attività di importanti istituzioni culturali, ha una fittissima rete di associazioni e gruppi giovanili, come il Dipartimento Musica e Spettacolo dell'Università. Nessun ambito è tralasciato, dalla tradizione alla ricerca, alla sperimentazione. E i dati della Società Italiana Autori ed Editori, SIAE, confermano che ogni anno Bologna può contare su un'affluenza di pubblico tra le più alte in Italia. Il sistema produttivo musicale è per eccellenza rappresentato dalla Fondazione Teatro Comunale, erede storica e culturale della vocazione musicale non solo di Bologna, ma di tutta la regione, riconosciuta internazionalmente come terra della lirica. Un panorama così articolato e dinamico costituisce senza dubbio un patrimonio culturale di grande valore, profondamente radicato sul territorio. L'arte e la musica soprattutto sono linfa vitale per Bologna, che vanta dagli anni 70 una scuola per cantautori. Scuole di canto, conservatori, ma anche il gusto materiale godereccio per la vita, che fa parte dell'Emiliano, ha creato il terreno fertile per la nascita di cantautori come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Claudio Lolli ed in seguito Luca Carboni. Bologna è un belico di tutto, Bologna è una donna emiliana di zigomo forte, con questa canzone Guccini che ci dice tanto in modo tutto suo di quella che lui chiama la vecchia signora. Quindi ascoltiamo questo testo che è veramente esaustivo di quello che rappresenta e ha rappresentato Bologna. E la canzone non poteva che intitolarsi Bologna. Bentornati a Radio Alma, abbiamo qui come ospite Annalisa direttamente da Bologna, alla quale faremo delle domande per sapere qualcosa in più su questa splendida città. Benvenuta Annalisa, ciao. Grazie Deda, buonasera a tutti i radioascoltatori di 100 Città e un saluto da Annalisa. Innanzitutto, in che parte di Bologna vivi? Vivevo, per essere precisi. Ah, adesso ti sei trasferita. Sono trasferita qui a Bruxelles. Da quanto? 7 anni. Quindi prima vivevi a Bologna, dove? In centro? Vicino al centro, una zona vicino ai Giardini Margherita. Ah, abbiamo parlato prima dei porticati di Bologna, di Piazza Verdi, che è piena di porticati, 40 chilometri di porticati a Bologna. 40 chilometri di porticati, non lo sapevo. Bologna è una città prettamente universitaria, piena di locali e circoli. E volevo chiederti, è cambiata secondo te il modo in cui gli studenti vivevano Bologna 10 anni fa rispetto ad oggi? Beh, diciamo che mancando dalla città da qualche anno mi è difficile dirlo. Posso parlare di quella che era stata la mia esperienza come, sì, come studentessa a Bologna, anche se sicuramente essendo io di Bologna, essendo cresciuta a Bologna, ho avuto un'esperienza probabilmente diversa da coloro invece che hanno studiato a Bologna come fuori sede. Ma qui abbiamo anche Giulio che da poco si è laureato a Bologna, quindi avremo un confronto tra quella che è stata la tua esperienza e quella che è stata l'esperienza di Giulio. Vero Giulio? Verissimo, verissimo. Ok. Beh, la mia esperienza è un'esperienza sicuramente positiva, come mi sembrava che stavate accennando in precedenza. Bologna è una città ricca di posti dove divertirsi, culturalmente molto, molto vivace, anche in città universitaria, quindi c'è la possibilità di conoscere tanti giovani che vengono da più parti d'Italia e anche giovani che vengono dall'estero, tanti studenti Erasmus, l'università Johns Hopkins, quindi per stranieri, quindi insomma una città dove sicuramente è facile conoscere persone, persone di, anche di diversi paesi e che vengono anche da diverse città italiane. Sì, sicuramente Bologna è una città multiculturale, però forse rispetto agli anni passati c'è un attimo un po' più di confusione tra i giovani che magari fanno, ci sono di solito dei disordini all'interno della città a causa dei cosiddetti pancabestia, che è un fenomeno del quale Cofferati ha parlato in un'intervista, e spesso in Piazza Verdi, che è una piazza dove i giovani si ritrovano mettendosi per terra, alla fine della serata è piena di bottiglie vuote, cani che girano liberamente, e quindi volevo chiederti se 10 anni fa la situazione era la stessa. Sicuramente no, ecco, mi collego a quello che stavi dicendo proprio ora, magari pensando a quello che mi raccontano amici che sono rimasti a Bologna. Ecco, da questo punto di vista sento dire che la situazione a Bologna è cambiata, è una città meno sicura, anche girare la sera diciamo in libertà per il centro, magari per ragazze, certo, è diventato più difficile se non impossibile. Mentre ti posso dire che sicuramente 7-8 anni fa, quando io ero a Bologna e studiavo a Bologna, la situazione non era così così insicura o pericolosa, almeno questo senso di insicurezza non si percepiva. Ok, e quindi il fatto che sia diventata sempre di più una città prettamente a misura di giovane ha inciso negativamente sulla vita delle famiglie e degli anziani? No, io penso che comunque Bologna offra un'ottima qualità di vita sia per le famiglie che per gli anziani, proprio per il fatto che è una città comunque a misura d'uomo, non è tanto grande ma non è nemmeno troppo piccola, quindi no, non penso che questo abbia inciso. A proposito di anziani, scusate se intervengo, mi intrometto in questo modo. Direttore, i microfoni. Roberta, certo. Microfono. Si è parlato di anziani un attimo fa, di nonne. Ah, quando avete parlato prima, di nonne? Si è parlato di nonne, di una nonna in particolare, Annetta. La mia nonna! Eccola! E i suoi famosi tortellini. Bene, approfitto per salutare la mia nonna Tina. Ciao nonna, un caro saluto dai microfoni di Radio Alma e da Cento Città qui a Bruxelles. Ma e basta? Basta, noi aspettiamo. Il direttore mi faccia qualche domanda. Le faccio una domanda, Vespa. La nonna Tina quando invita il direttore di questa radio a mangiare tortellini veri appena fatti? Beh, direttore, questo che a questo punto bisognerà organizzare al più presto una spedizione, perché no, ecco, una spedizione di Radio Alma in terra emiliana. E potremmo soprattutto tanti, in terra modenese, perché vorrei specificare, sì, io sono di Bologna, si parla di Bologna questa sera, però la mia nonna... La nonna è di Modena, anzi dintorni per essere... Quindi inglese. La nonna si prepari a ricevere tutta Radio Alma a casa. Bene, vi lascio. Quale secondo te è una cosa di Bologna che non è giustamente valorizzata? Domande difficili questa sera, i microfoni di Cento Città. Forse la squadra di calcio, ma no, non apriamo adesso vaso di Pandora, lasciamo stare il Bologna dove è. Ma il Bologna adesso è in Serie A. Ultima. In Serie A, certo. Ultima, certo. Però, ultima in classifica. Bologna è quella squadra che ha vinto fuori casa a San Siro contro il Milan nella prima giornata di campionato, ma non siamo a scusa meri, quindi lasciamo. E infatti torniamo il calcio, lasciamolo agli uomini, noi questo è un dialogo tra donne, Roberto, quindi si parla di tortellini, di pasta fatta in casa, noi il calcio non ce ne intendiamo molto, sai com'è. No, tornando alla tua domanda, direi che non mi viene in mente nessun aspetto che non sia particolarmente valorizzato della città, come si diceva in precedenza, quindi una città non troppo grande, a misura d'uomo, che offre tanto ai giovani, offre tanto agli studenti, ma offre anche, io penso, un'ottima qualità della vita per le famiglie e per gli anziani. E poi non dimentichiamo che Bologna si trova a metà strada tra la costa e l'Appennino, quindi ottima posizione. È un'ottima posizione, si può facilmente raggiungere il mare, le località turistiche in un'ora di macchina se non meno, e in un paio d'ore si è sull'Appennino, e quindi si può andare in montagna, si può andare a sciare d'inverno. E se pensi a Bologna, ti viene in mente la prima cosa che ti viene in mente? I colli bolognesi, i rinomati colli bolognesi. Bruxelles e Bologna, pensi che abbiano qualcosa in comune? Bruxelles e Bologna, una cosa in comune, sono entrambe un punto d'incontro per persone che vengono da luoghi differenti. Chiaramente nel caso di Bologna, lo si diceva in precedenza, principalmente giovani italiani che vengono da diverse zone d'Italia, dal centro, dal sud. Bruxelles è luogo d'incontro di persone che invece vengono da tanti paesi diverse. E poi tutte e due sono città molto artistiche, che danno molte possibilità ai giovani di esprimersi musicalmente, ci sono anche tante mostre di pittura. Sì, sicuramente entrambe sono molto ricche, molto vivaci da un punto di vista culturale. Bologna vale la pena vederla, quindi per farsi un giro sotto i portici in centro, per ammirare le due torri, per fare un giro sui colli, magari in Vespa, e magari sentire buona musica e mangiarsi buona musica, un buon piatto di tagliatelle. Vorrei arrivare all'ultimo punto, ma non meno importante, visitare Bologna per gustare quelle che sono le specialità culinarie della zona. Allora mi raccomando, alla prossima vacanza tutti a Bologna. Affrontiamo un argomento un po' più serio, passiamo alla politica sociale di Bologna. Cofferati in una intervista si lamenta di disordini e guerriglie che capitano a Bologna e parla dei pancabestia proprio come una crew ben consolidata nella città, denunciando un modo di vivere dannoso per i cittadini. Ma chi sono i pancabestia? Ce ne sono molti a Bologna? Ma come si diceva prima, sicuramente la situazione è cambiata rispetto a quando io vivevo a Bologna. Da quello che ho sentito, dai dati che tu riportavi, mi sembra peggiorata, però sì, ce n'erano abbastanza, sento ora dire che ce ne sono tanti, e sicuramente se si passeggia per le vie del centro, per esempio attorno a Piazza Verdi, lì si incontra. Giulio, cosa ci dici tu che hai vissuto Bologna di recente? Ci li hai due spicci. È questo, sempre quello che ti chiedono camminando. Questa è la domanda ricorrente. Oppure, varie proposte commerciali. Ma chi è il pancabestia? Cosa fa nella vita? Me lo sono sempre chiesto, soprattutto quando li vedi in estate e poi in inverno non li vedi più, quindi ti viene da pensare se veramente... Ma dici che studiano, fanno qualcosa, hanno un lavoro, sono dei nuovi barboni, possiamo dire, dei nuovi clochard. Ma qua io intervisterei un esperto, barboni Simone. Barboni di lusso. Quindi dici che è solo una cosa di facciata, quello è uno stile di vita, è come mostrarsi così ma non esserlo veramente. Sì, sono figli di papà in sostanza. In sostanza sono figli di papà. Questa è come la vediamo noi dalla regia. Piazza Verdi la conosci, l'hai vissuta? Certo, veramente. Piazza Verdi, che sai che c'è la possibilità di poter andare a Piazza Verdi e tu potresti dire quello che vuoi. Potresti metterti al centro di Piazza Verdi e denunciare un problema, oppure cantare, oppure dire una poesia. C'è proprio un trespolo dove tu sali e puoi esprimerti come meglio credi. Non ho mai visto nessuno recitare poesie, comunque sì. Io più volte le ho viste, persone che si mettono anche in cerchio e ascoltano. Quindi se tu, Giulia, hai qualcosa da dire, devi andare a Piazza Verdi. Quindi prendo l'aereo. Prendi l'aereo e vai là. Va bene. Vai la prossima Piazza volta, Verdi. Allora. Ma adesso smorziamo un po' questi argomenti, cofferati, pancabestia, problemi sociali, con buona musica. Cosa ci fai ascoltare, Giulio? Ti faccio ascoltare un vero cantautore bolognese. Beh, anche lui non proprio bolognese, di Zocca, quindi provincia di Modena. Il buon vecchio Vasco Rossi. Ok, grande Vasco. Quindi allora siamo pronti con Vasco. Bentornati. Allora, stavamo parlando di Bologna, e Bologna è una città artistica piena di musicisti che dà ampio spazio a gruppi musicali emergenti che si mettono in luce per la loro voglia di creare stili innovativi e musiche elaborate.